non mi dire di no. Tutto sei per me e tu lo sai. Dimmi sì, oh dimmi ancora di sì. Vivo solo per te e tu lo sai. Cosa farò se mi manchi tu? Come vivrò senza i baci tuoi? Dimmi di sì, dimmi di sì. Sai baci tuoi, dimmi di sì, dimmi di sì. No!